Il punto di Stefano Folli. Nella situazione a cui siamo giunti, sarebbe opportuno che il governo Letta venisse del tutto ristrutturato nel suo programma, nel suo orizzonte temporale, nei suoi ministri, alcuni dei quali evidentemente sono sotto stress e hanno bisogno di riposo. Può darsi, ma non è sicuro, che tutto questo possa avvenire senza passare attraverso una crisi formale, ma è un aspetto secondario. Quello che conta è trasmettere agli italiani l'idea che si sta facendo qualcosa di utile e non si è legati solo alla logica dell'ordinaria amministrazione. Lo stillicidio quotidiano è fatale se non si ha la forza di porvi rimedio. E oggi ci sono troppi ministri al centro delle polemiche, segno che il tessuto dell'esecutivo si sta lacerando e che è urgente un'iniezione ricostituente prima che sia troppo tardi. Enrico Letta ha ancora una sua credibilità pubblica che deriva dall'onestà con cui svolge un difficile mestiere. È opportuno che batta qualche pugno sul tavolo finché è in tempo.